Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio. Ricominciamo insieme una nuova settimana e per la verità ricominciamo questa settimana con un tema decisamente complesso, però abbiamo deciso di affrontarlo sia per una circostanza di cronaca sia perché per la verità in molti ci avete scritto chiedendo di risollevare l'attenzione su questa vicenda, anche se non ci sono delle novità, almeno negli ultimi giorni, importantissime per quello che riguarda gli azionisti della società della quale parleremo. Di novità ce ne sono sul fronte giudiziario, adesso vi spiegheremo perché. Allora, intanto, per oggi e domani è convocata l'assemblea degli azionisti di una grande compagnia di assicurazioni che negli ultimi anni ormai è spesso, per non dire costantemente, al centro dell'attenzione e purtroppo non per via di buone notizie. L'ultima notizia appunto è arrivata martedì scorso: controlli tardivi, ispezioni poco frequenti, comunicazioni mancate. Secondo i giudici di Torino, l'ISVAP, l'autorità di controllo del settore assicurativo, non avrebbe fatto il proprio dovere riguardo alle irregolarità contabili che nella compagnia dei Ligresti, e quindi ritorniamo a parlare di Fondiari e Assai, si sarebbero evidenziate già a partire dal 2009. Valutazioni che hanno portato alla notifica di un avviso di garanzia al presidente, anzi all'attuale commissario straordinario di ISVAP, appunto Giancarlo Giannini, e quindi ex presidente di questa autorità. In questo momento c'è un commissario perché ISVAP si sta trasformando in un altro organismo che è IVAS, che passerà sotto il controllo prudenziale della Banca d'Italia. La notifica dell'avviso di garanzia a Giannini si va ad aggiungere ad una serie di tasselli appunto di una vicenda già lunghissima, molto intricata, che qui a Salva Danaio abbiamo già affrontato in passato e stiamo cercando appunto di raccontarvi passo dopo passo. Tra l'altro, in virtù di queste novità, Giannini proprio venerdì pomeriggio ha offerto al governo, al ministro dello sviluppo economico Passera e anche al governatore della Banca d'Italia le sue dimissioni da commissario straordinario dell'ISVAP, ma a Giannini sarebbe stato suggerito di soprassedere, sia perché mancano appunto poche settimane alla nascita del nuovo organismo, per cui in termini naturali probabilmente non siederà già più sulla poltrona appunto di commissario di ISVAP, e poi perché gli è stato detto comunque al momento sei solo oggetto di indagine, c'è solo un avviso di garanzia, non è stato dimostrato nulla, per cui il governo ha respinto queste dimissioni. Ma questa appunto è solo una questione che ci interessa, anche se magari anche rilevante ai fini poi del lavoro che la magistratura su varie città sta facendo per ricostruire appunto la questione Fondiari Assai. Più che però a guardare ai piani alti, alle avventure della famiglia Ligresti, noi oggi nella nostra trasmissione faremo più attenzione alle iniziative che i piccoli risparmiatori colpiti da questa vicenda di acquisizioni, aumenti di capitale, fusioni e quant'altro appunto hanno subito, tutte le iniziative che appunto queste persone stanno mettendo in atto. Non ci dimentichiamo come dietro ad una vicenda finanziaria degna davvero della trama di un film ci siano le vite di molte persone, di molti piccoli azionisti disorientati da tempo per via delle intense oscillazioni dei titoli e spesso rassegnati anche per via delle ingenti perdite. Noi ritorneremo dunque su questo famoso e molto complesso aumento di capitale che Fondiari Assai ha effettuato la scorsa estate per integrarsi con Unipol, e cercheremo di capire che tipo di iniziativa appunto queste persone stanno prendendo e come stanno lavorando anche i magistrati in tutta Italia. Con noi stamattina Valeria Novellini, collega dell'ufficio studi delle Sole 24 Ore. Valeria, ciao, bentornata. Buona giornata. L'avvocato Paolo Fiorio, legale del Movimento dei Consumatori, peraltro su Torino, dove la magistratura sta lavorando intensamente intorno alla vicenda Fondiari Assai. Avvocato, buongiorno e bentornato. Buongiorno. E poi avremo alcune testimonianze molto interessanti, anche perché un gruppo appunto di questi risparmiatori ha presentato un esposto estremamente articolato e molto ben documentato che stanno presentando alle varie magistrature italiane, perché vogliono cercare di capire se ci sono i presupposti per intraprendere iniziative legali che possano portare loro in qualche maniera un ristoro rispetto a tutto quello che hanno perso. Poi vi spiegheremo perché hanno perso tanto. Allora, per chi è all'ascolto volesse intervenire con la propria testimonianza, qualora siate rimasti coinvolti nella vicenda Fondiari Assai, /integrazione con Unipol. Non vorrei che arrivassero delle domande, come spesso ci capitano con puntate di questo tipo, di persone che hanno una polizza della propria auto con queste compagnie. A loro non sta succedendo assolutamente niente, continuate a pagare la vostra polizza perché così siete coperti da eventuali sinistri ed incidenti. Per cui oggi parliamo di altro, parliamo della vicenda finanziaria di Fondiaria Sai. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi in diretta. Se non potete intervenire in diretta, ci potete scrivere al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, oppure potete andare anche su Facebook. Il nostro profilo è salvadanaio-radio24, twittate anche, e siamo anche su Twitter, @salvadanaio24. Allora, solo due secondi di borsa per quello che riguarda questa giornata, ma insomma vi ho già detto nel giornale radio che la giornata è negativa, ed è negativa soprattutto per Milano che perde l'1,60%. Chissà che il mercato non guardi anche, vabbè, intanto sicuramente le novità politiche degli ultimi giorni, con questa dichiarazione di Silvio Berlusconi che ha detto che potrebbe anche far mancare prossimamente il suo appoggio al governo Monti, poi anche il risultato elettorale siciliano. In ogni caso, oggi Milano bersagliata dalle vendite e il listino italiano perde l'1,67%. Sono però negative anche le altre piazze. Una settimana abbastanza importante per le sorti del destino greco. Da Bruxelles, in teleconferenza mercoledì, si valuterà il lavoro della Troica su quello che è stato appurato, appunto, anche sulla gestione degli ultimi mesi del governo greco, che comunque ha bisogno di almeno un altro biennio per poter ripristinare i suoi conti pubblici. Oggi non c'è Wall Street all'appello, ci mancheranno gli stimoli americani, ma là, poveretti, sono sotto l'uragano Sandy, e quindi si è ritenuto appunto di chiudere il mercato statunitense. Wall Street oggi e forse anche domani si prende una giornata di pausa, ma purtroppo sono alle prese con ben altre emergenze. Buona l'asta dei titoli di Stato di questa mattina. Il Tesoro italiano ha collocato senza problemi gli 8 miliardi di bot a 6 mesi, addirittura con tassi in discesa. Il rendimento del semestrale è sceso all'1,34% dall'1,50% del mese scorso, e però lo spread fra BTP e Bund è risalito addirittura stamattina, è arrivato a 349 punti base. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di stamattina. Allora, intanto volevo salutare Michele da Torino. Michele, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Azionista Fondiaria Sai, immagino, sì. Casualmente. Sì, certo. Ma anche Unipol, ecco, sono stato fortunato, diciamo, in tutta questa vicenda. Ecco, ci racconti un po', lei perché aveva deciso di effettuare un investimento su queste due compagnie di assicurazione italiane, che sicuramente non sarà stato fatto 2, 3, 4 mesi fa, ma magari un po' più indietro nel tempo, sì, no? Sì, infatti, anni fa, infatti, sì, sì, il mio investimento risale a diversi anni fa. Sì, quindi la mia decisione era che comunque si trattava di due compagnie sicuramente di rilievo, importanti, che comunque di anno in anno davano anche un dividendo, generando utili, davano anche un dividendo ai risparmiatori. Ecco, io l'ho visto come in un'ottica di risparmio, investire in due società che mi sembravano due ottime società, insomma. E poi che cosa è successo? Allora, quest'estate c'è stato questo aumento di capitale, poi noi con Valeria Novellini ricostruiremo soprattutto gli ultimi mesi di queste vicende per capire perché siamo arrivati a questa operazione straordinaria della scorsa estate. Che cosa è successo? Lei controllava il portafoglio dei suoi titoli e che tipo di movimenti notava? Ma ecco, è quello che è successo, cioè posso dire, cercando di assumere un po' brevemente, che comunque in poco tempo cioè questa storia di questo progetto di Unipol Fondsai è andata avanti anche forse quasi un anno. Ecco, comunque in un poco tempo, prima dell'estate, proprio in un momento probabilmente meno propizio per i risparmiatori, si è dato un'accelerata a questo progetto, e dando un'accelerata a questo progetto praticamente si sono fatti partire prima, diciamo, gli accorpamenti delle azioni, quindi queste azioni da una sono passate, cioè sono state accorpate 100 azioni e ne è stata fatta solo una. E in seguito diciamo si è dato il via a questi aumenti di capitale molto pesanti, sia su Unipol che su Fondiaria Sai. Io in particolare, ecco, avevo le azioni ordinarie, che sono quelle che poi a conti fatti hanno subito il danno maggiore. Ecco, lei non ha mai pensato di aderire all'aumento di capitale, nonostante appunto le condizioni fossero particolarmente non no, è... Sì, in realtà in parte io ho aderito, nel senso sperando che effettivamente, ancora credendo tra virgolette in queste aziende, ecco, in parte ho anche aderito, però chiaramente era una richiesta molto alta, cioè in pratica chi aveva molti risparmi e li aveva già persi con questo progetto, gli veniva chiesto di mettere altrettanti soldi, che era tantissimo, comunque in quel momento, per cui avendo già perso, è chiaro che è stata una manovra, come dire, che in qualche maniera... Ecco, ci può fare l'esempio, Michele, tanto per capire, no? Sulla base anche del portafoglio che lei aveva, se ci può raccontare, se ha voglia di raccontarci, appunto, perché sono anche questioni personali, magari io posso anche comprendere che si abbia un certo pudore nel farlo, però siccome molti si trovano nella sua condizione e questa situazione l'avete subita, non c'è niente di cui vergognarsi o da temere, se ci può raccontare quanto aveva, quanto si è ritrovato e quanto avrebbe dovuto sborsare se avesse aderito all'aumento di capitale, così anche per avere un'idea delle proporzioni del tema di cui stiamo parlando. Sì, infatti, ecco, io faccio il mio caso, occhio croce, ecco, io avevo tra fondiaria SAI ordinaria e Unipol ordinaria, avevo in totale circa 30.000 euro. Mi sono ritrovato dopo accorpamenti e diciamo anche prima della partenza dell'aumento di capitale, praticamente, cioè, comunque mi sono già ritrovato con un capitale quasi azzerato e la richiesta di mettere altri 30.000 euro, cioè praticamente mi è stato azzerato il capitale, è stato chiesto di mettere altri 30.000 euro. Se lo sarebbe dovuto ripianare da solo praticamente, Michele. Sì, praticamente sì, non è stato azzerato. Poi chiaramente con la partenza dell'aumento di capitale e tutto, veramente è stato azzerato tutto, quindi magari dai 30.000 euro uno si è trovato tipo 500 euro, sempre con la richiesta di rimettere 30.000 euro se uno voleva rimanere azionista e non perdere quei diritti che aveva acquisito. Adesso magari mi rendo conto che per chi non è stato direttamente coinvolto in questa vicenda può essere di difficile comprensione tutto questo meccanismo, ma adesso noi ci ritorneremo con calma e faremo capire appunto tutti i passaggi di queste operazioni. Detto questo, Michele, lei adesso che cosa sta facendo? Ha intrapreso delle iniziative per tentare di tutelarsi a chi si è rivolto? Quali sono le sue decisioni? Io, diciamo, sfruttando un po' la rete, il web, quello che è la possibilità che adesso ci viene data dalle tecnologie, ecco, assieme ad altre persone ci siamo raggruppati in un gruppo su Facebook, un gruppo di risparmiatori fondiari SAI Unipol, l'abbiamo chiamato, per le azioni appunto eventuali, legali e class action, e lì comunque abbiamo avuto comunque un modo almeno di parlare fra di noi, di confrontarci, di cercare di valutare le, diciamo, le varie offerte che magari certi legali potrebbero presentarci per farci tutelare. Comunque è stata la maniera per comunque per persone che magari non erano così preparate di riuscire un po' a capire che cosa si poteva fare. Certo. Ecco, chiaramente al momento stiamo ancora valutando, sì, abbiamo fatto gli esposti come gruppo, sono stati presentati un po' in tutta Italia questi esposti alle procure, sappiamo chiaramente che ci sono procure che già indagavano a Milano e a Torino sulla vicenda e quindi abbiamo fatto i nostri esposti, ma non abbiamo ancora proprio scelto, come dire, una via esatta, un legale. E certo, anche perché per la verità poi le parentesi aperte dalle indagini in corso sono talmente tante che probabilmente forse anche i magistrati devono decidere quale strada rafforzare in termini appunto di ulteriori indagini. Comunque Michele, grazie per la sua testimonianza, ci terremo sicuramente in contatto. Io fra un po' sentirò poi anche un altro collega di Michele, Marco, che ci aiuterà a capire anche nel dettaglio il contenuto di questo esposto denuncia che questo gruppo di risparmiatori appunto ha presentato, un esposto che davvero ricostruisce in maniera estremamente dettagliata le ultime vicende. Noi però ce le facciamo ricostruire dalla nostra Valeria Novellini, senza ritornare al medioevo dei comportamenti, del business, degli affari ligresti, andrei banalmente al dicembre scorso, quando praticamente la società chiude l'anno con una perdita in bilancio di qualcosa come 1 miliardo di euro, se non mi ricordo male. 1 miliardo di euro, dopo che già nel mese di giugno era stato effettuato un aumento di capitale dell'importo di 800 milioni di euro. Ecco, vorrei un attimo specificare, concordo sul fatto che teoricamente il settore assicurativo è sempre stato considerato un settore per cassettisti e che comunque in genere queste società distribuivano dividendi elevati, però attenzione, perché da quando si è innescata l'attuale crisi finanziaria, siccome le assicurazioni devono fare degli investimenti e questi investimenti in gran parte sono stati fatti su titoli di vario tipo che sono stati comunque colpiti dalla crisi finanziaria, purtroppo da quando c'è stato l'inizio della crisi non si può più considerare in linea di principio che il titolo assicurativo sia propriamente un titolo da cassettista. Non sono lo è come... più, d'altronde neanche il BOT, il BTP, non come sono in passato, come le banche, però diciamo che il rischio è abbastanza vicino. Comunque, questa mega perdita ha innescato la necessità di ricapitalizzare il gruppo per il fatto che non venivano più rispettati gli indici di solvibilità che devono essere rispettati perché una compagnia assicurativa continui a operare sul mercato. Allora, quindi, mentre l'aumento di capitale precedente gli azionisti lo avevano fatto più o meno serenamente, questo secondo nel giro di pochi mesi e qua non ci stavano tanto, per cui si sono cominciati ad accendere un po' di riflettori. Si sono cominciati ad accendere i riflettori e, vista l'entità dell'aumento di capitale che sarebbe stato necessario, in sostanza si è dovuti ricorrere a una vera e propria operazione di salvataggio, non tanto più diciamo di ricapitalizzazione normale. A questo punto, dopo varie vicissitudini, l'unica compagnia che in quel momento sembrava interessata a rilevare il controllo di Fondiaria SAI è stata proprio Unipol, e che quindi, diciamo che poi neanche di tanta sua iniziativa è venuta allo scoperto con questa manifestazione di interesse per Fondiaria SAI, no? C'è stata una sorta, poi noi non la possiamo dare per certa perché non abbiamo documenti e certezze, però insomma pare che ci sia stata una sorta di persuasione morale a far sì che queste due compagnie si integrassero. È un po' come la storia dei io ricorderei per esempio l'ex Banco Ambrosiano. Molto più indietro, ma perché quella era una situazione di dissesto, come di fatto a questo punto era quella di Fondiaria SAI. Quindi moral suasion, chiaramente, che le autorità regolamentari italiane possono esercitare su altre società italiane, perché ovviamente non lo possono fare sui gruppi esteri. Oggi si parla teoricamente di un ritorno di interesse di gruppi assicurativi esteri verso Fondiaria SAI, però è evidente che al momento, quando si è rilevato il dissesto, nessuno di questi ha dimostrato il proprio interesse. Quindi Unipol manifesta in ogni caso il suo interesse, che sia stato in qualche maniera invitato il gruppo bolognese a farlo o meno, in ogni caso Unipol manifesta il suo interesse per un'integrazione con Fondiaria SAI. Contestualmente anche altri fondi di investimento manifestano il loro interesse, era un interesse molto più sostanzioso, quantomeno per quello che riguarda il denaro che sarebbero stati disposti a mettere sul piatto. Sator, Palladio. Valeria. Esatto, Sator e Palladio, che peraltro sono ancora azionisti di Fondiaria SAI, anche se chiaramente con piccole quote, intorno al 3% ciascuna. Però il problema è che a questo punto si è cominciato a contestare il fatto che non si trattava di operatori assicurativi e sul fatto che non ci fossero le reali garanzie, chiamiamole così, per un'operazione di così grande importo come doveva essere questo aumento di capitale. Quindi, escludendo varie dietrologie, si è teso a privilegiare la soluzione dello stesso settore, quindi dell'ingresso di una compagnia assicurativa. Certo, però per fare questo matrimonio, oltre all'aumento di capitale di cui si conosceva già l'importo per quello che riguardava Fondiaria SAI, anche Unipol non aveva proprio le disponibilità finanziarie immediate, la liquidità da mettere sul piatto, per cui anche per Unipol aumento di capitale al fine di effettuare l'integrazione con Fondiaria. Esatto, e non solo, pur dovendo fare un aumento di capitale anche lei molto consistente, Unipol, come condizione preliminare per intervenire, ha chiesto di non essere obbligata ad effettuare l'OPA a cascata sulle società controllate da Fondiaria SAI, in particolare Milano Assicurazioni, e sulla controllante Premafin, perché altrimenti l'onere che avrebbe dovuto sostenere sarebbe stato eccessivo. Quindi ha dovuto comunque ricapitalizzarsi, e però si è dovuto escludere l'OP perché c'era anche questo problema. Quindi anche su questo io non dico che ci siano state dietrologie, ma c'era il caso che si dovesse essere costretti all'OPA a cascata, e quindi, ripeto, una compagnia assicurativa, per quanto anche lei con i suoi problemi, poteva essere ritenuta più solida di altri operatori. Con un'offerta pubblica d'acquisto sicuramente le condizioni dei piccoli azionisti delle quali parliamo oggi sarebbero state probabilmente molto diverse. Ci dobbiamo fermare perché adesso arriviamo al punto centrale di tutta la vicenda, i famosi aumenti di capitale a servizio di questa fusione, che arrivano appunto nel luglio scorso, ma ovviamente sono molto complessi, estremamente diluitivi per tutte le posizioni e molto penalizzanti per i piccoli risparmiatori. Avvocato Fiorio, non mi sono dimenticata di lei, però ritenevamo necessario ricostruire un po' la vicenda a beneficio di chi non ne ha mai sentito parlare, non la conosce, però ci ascolta lo stesso con interesse. Poi ci sono anche altri due ascoltatori. Questa mattina stiamo veramente facendo i trapezisti, un esercizio con la nostra Valeria Novellini del Sole 24 Ore molto complicato per ricostruire in termini semplici una vicenda finanziaria complicatissima che peraltro non ha ancora neanche lontanamente scritto l'ultima puntata. Fondiaria SAI, il matrimonio con Unipol e la situazione nella quale si trovano molti piccoli azionisti che avevano questi due titoli e che hanno cercato di capire come funzionasse la scorsa estate gli aumenti di capitale delle due società, aumenti di capitale, cioè altri soldi chiesti agli azionisti affinché appunto le due aziende potessero integrarsi. Allora Valeria, chiudiamo questo discorso, poi andiamo con le altre testimonianze con l'avvocato Fiorio del Movimento dei Consumatori. Che condizioni, che termini avevano questi aumenti di capitale, per fare proprio degli esempi semplici? Sì, allora parliamo di Fondiaria SAI, che è il caso diciamo più incriminato in questo momento, che ha avuto maggiori... Tanto per utilizzare dei termini diplomatici. Sì. Ecco, Fondiaria SAI, il problema è che molti si sono tra virgolette lamentati del forte raggruppamento di 100 azioni in una, ma il fatto è che in precedenza era chiaramente stata già stabilita la proporzione dell'aumento di capitale che si sarebbe dovuto effettuare per risanare la società. Parliamo di un aumento di 1.100.000.000, quindi molto grosso. Stante il fatto che... Però già il raggruppamento di capitale non è un'operazione che in ogni caso rende il capitale che si è investito equivalente al termine di questa operazione rispetto a quello che si ha all'inizio, o no? Teoricamente sì. Perché nella pratica non questo, avviene. Diciamo, questo è stato effettuato per evitare che il diritto di opzione fosse eccessivamente frazionario, nel senso che appunto, visto che l'aumento di capitale è stato fatto in ragione di una... Adesso ritroviamo, sì. Sì. Praticamente 252 azioni nuove, ogni una vecchia. Se quelle vecchie di prima non fossero state raggruppate con un raggruppamento così elevato, cioè 100 azioni in una, è chiaro che sia le nuove azioni sia soprattutto i diritti di opzione avrebbero avuto un valore frazionario con una massa di zeri che li avrebbe che reso diciamo impossibile la trattazione. Quindi questo è un po' come tecnicalità, il raggruppamento naturalmente ci stava. Il problema però è stato che con un aumento così forte, quello che si verifica nei primi giorni dell'aumento di capitale, soprattutto se l'aumento non è particolarmente gradito, è un riversamento sul mercato di tutti i diritti di opzione da parte di chi non può, certo, per ragioni economiche, esatto, come abbiamo sentito. Oppure dice prima, questo aumento di capitale non voglio farlo, quindi visto che ho il diritto. Ecco, questo viene fatto normalmente nei primi giorni di aumento di capitale perché, come si sa, negli ultimi giorni questi diritti vengono posti in vendita automaticamente dalle banche, quindi ne finisce una massa sul mercato e quindi di solito gli ultimi giorni la quotazione è ancora più sfavorevole. Purtroppo quando gli aumenti sono così fortemente diluitivi e, come ho già detto, sgraditi, c'è la corsa alla vendita e quindi l'intasamento del sistema, certo, di conseguenza non vi è la possibilità di vendere i diritti. In tutto questo poi ci ritorniamo, c'è un altro giallo nel periodo in cui sarebbe dovuto partire l'aumento di capitale. Praticamente pare che le aziende, non pare perché poi si verificò, perché me lo ricordo, lo raccontammo anche noi, i prospetti informativi di questi aumenti di capitale vennero divulgati ancora prima che la Consob desse la sua autorizzazione a queste operazioni, il che praticamente l'aumento di capitale si stoppò, venne fatto una settimana successiva, però questo rese ancora più opaca tutta l'operazione. Avvocato Fiorio, Movimento dei Consumatori, certo che per un legale c'è solo l'imbarazzo della scelta sui temi da approfondire per tutelare le persone che eventualmente si rivolgono ad un'associazione dei consumatori. Lei quale aspetto la incuriosisce di più, indispettisce di più come legale di un'associazione dei consumatori, e non lo so, anche se le sono arrivate delle segnalazioni dai vostri associati, come intendete tutelarli anche di fronte a tutto questo? Perché tutto sommato la obiezione che si potrebbe fare a tutti, così come l'abbiamo fatta anche in passato perché aveva investito in Parmalat piuttosto che all'Italia e poi si era trovato in queste situazioni, era insomma avete investito in capitale di rischio, queste conseguenze ci possono anche stare, e però un però bisogna anche metterlo. Certo, siamo di fronte a una vicenda emblematica, no? Perché ci sono veramente molti profili che toccano i nodi centrali della tutela del piccolo risparmiatore, nel caso azionista, sui mercati finanziari. Secondo me per partire da questa vicenda bisogna fare un piccolo passo indietro, cioè perché Fondiaria SAI si trova nella situazione tutto d'un tratto in cui deve ricapitalizzare e registra una perdita di un miliardo di euro. Su questo profilo attualmente è in corso un'indagine presso la Procura della Repubblica di Torino per la quale, come si è detto all'inizio della trasmissione, si viene ipotizzato anche un reato di falso in bilancio. Oltre che i vari ostacoli alla vigilanza e quant'altro. Oltre che gli ostacoli alla vigilanza e la manipolazione del mercato, che però mi pare siano oggetto di indagini a Milano. Sì. Questo perché sostanzialmente è venuto fuori che le riserve tecniche, cioè quanto la compagnia deve stanziare per far fronte ai sinistri che si possono verificare o che si sono già aperti ma non c'è stata una liquidazione, erano sostanzialmente sottostimate. Su questo è stata pubblicata disponibile sul sito di Sai Fondiaria una relazione del collegio sindacale a seguito di alcune denunce, dalla quale si mette in evidenza che sotto diversi profili sono stati sottovalutati quelli che erano i rischi. Ritornando indietro già solo sull'aumento di capitale precedente, quello del 2011, il collegio sindacale rileva come nel prospetto informativo non fosse contenuta un'informazione, cioè ovvero sulla quantità dei risarcimenti, sui parametri utilizzabili, che era un'informazione rilevante. Per queste ragioni viene fuori poi una perdita. Allora, questo è un punto rilevante, perché l'azionista che investe o che durante il corso del proprio investimento tiene il titolo, non lo disinveste, perché vengono occultate delle informazioni che, se note, determinerebbero delle diverse scelte di investimento, è un azionista che naturalmente viene danneggiato, certo, da un mercato che non è trasparente. Mm-hmm. Questo è il primo punto. E su questo bisogna naturalmente attendere che ci siano degli esiti dalle indagini della Procura della Repubblica di Torino, però molte informazioni pubbliche sono già oggi in base alle relazioni del collegio sindacale. Poi l'altro aspetto emblematico è quello relativo al mancato lancio dell'OPA, nel senso che dal punto di vista della forma, così come anche sul problema della diluizione dell'aumento di capitale, probabilmente siamo in una situazione nella quale le forme sono state rispettate. Sembra però come se tutte le iniziative che potevano potenzialmente tutelare al massimo i piccoli azionisti, dall'accettazione dell'offerta Sator Palladio, che per carità non arrivava da assicuratori ma da finanzieri senza macchie, senza paura, all'OPA appunto, che viene così bellamente anche non presa in considerazione, aggirata, ecco, non mi veniva il termine, effettivamente come se tutte le iniziative, ribadisco, di tutela massima dei piccoli investitori fossero state bellamente messe da parte per chiaramente intraprendere invece le direzioni di tutela di grandi azionisti, che comunque erano grandi creditori come Mediobanca ed Unicredit. Io adesso cerco proprio di banalizzare la vicenda, che è molto più complessa, per cui speriamo anche di non andare nei casini oggi, sperando che ovviamente quello che dico è comunque riportato su tutti i giornali e non è che ci stiamo inventando nulla. Avvocato Fioro, no? Sembra proprio così, a giudicare da quello che stiamo raccontando, tutto quello che poteva essere fatto per tutelare i piccoli azionisti è stato invece messo da parte per andare su altre strade. Sì, diciamo che in un mercato maturo che non tutela certi interessi, le offerte pubbliche d'acquisto devono essere viste con altra ottica, o comunque le proposte di acquisto che vanno a vantaggio degli azionisti non devono essere, diciamo, passare sotto silenzio assoluto. Però anche su questo profilo bisogna vedere cosa succederà nei prossimi mesi, perché comunque è aperta anche su questo un'indagine presso la Procura della Repubblica di Milano, nella quale si discute del famoso papello, cioè di questo accordo, sì, esatto, che sarebbe stato concluso dai Ligresti con l'amministratore delegato di Mediobanca, i creditori principali, ma a conoscenza anche Valeria Ride, quindi Unipol, con il quale sostanzialmente pare che siano stati promessi. La difesa di Mediobanca dice che è stato firmato solo per presa visione, però sono stati promessi dei benefici privati, che è proprio ciò che l'OPA e nel caso anche l'esenzione dell'OPA disposto dalla Consob vuole evitare, cioè il principio è che quando si acquista il controllo di una società, quel valore in più che si ha nell'acquistare il controllo non deve andare a vantaggio dei pochi che hanno la maggioranza delle azioni per determinare appunto le maggioranze in assemblea, ma deve andare a vantaggio di tutti gli azionisti. Se risultasse effettivamente questo accordo sui compensi privati per i soci di controllo della controllante di Fondiaria SAI fossero stati pattuiti, allora su questo naturalmente si potrebbe aprire un nuovo capitolo. Peraltro un capitolo che non vede del tutto, non è una novità nel mondo SAI Fondiaria, perché basta ricordare l'acquisto della Fondiaria da parte della SAI di 10 anni fa, che poi è finito nelle aule dei tribunali e oggi è in Cassazione, nella quale proprio è stato in alcune occasioni accertato è stato accertato la violazione dell'obbligo di OPA. Quindi proprio qua si persevera. Avvocato Fiorio, mi deve scusare, la interrompo perché ho 3 ascoltatori in attesa e soprattutto c'è Marco da Torino che saluto. Marco, buongiorno. Ci sente? Sì, io vi sento. Non mi sono dimenticata di lei, chiaramente. Adesso guardi, le chiedo un altro minuto e mezzo di pazienza, così la faccio argomentare bene il contenuto del vostro esposto nell'ultima parte di Salvadanaio, così abbiamo tutto il tempo. Però nel frattempo, prima di andare al via libera, riesco a sentire forse un paio di ascoltatori. Giuseppe dalla provincia di Frosinone, buongiorno. Sì, buongiorno, vi ringrazio. Grazie a lei. Io vorrei sollevare 2 o 3 problemi. Ah, addirittura. Intanto le spiego il motivo. Allora, intanto la Fondiaria mi risulta che fosse una vera compagnia assicurativa. Quando era stata acquisita dagli Gresti, praticamente si trattava di costruttori. Allora, qui ci stanno dei problemi di carattere di metodo e di merito. Allora, io sono un azionista cassettista di azioni Fondiaria SAI. Quando sono andato sono stato avvicinato, contattato da un sindacato per fare l'azione di rivalsa, praticamente sono andato a consultare il mio, visto che provenivo dall'esperienza Italease, dove ho perso una cifra, praticamente, però ho anticipato anni fa una cauzione all'associazione sindacale, attualmente non vedo la patta. Chi sono? Quindi, i siti? Giuseppe, benissimo. Sì, perché guardi, l'avvocato Bacci, che è presidente di questa organizzazione, noi l'abbiamo interpellato per la trasmissione di oggi, sarebbe venuto anche volentieri, solo che essendoci l'assemblea degli azionisti di stamattina è presente a quell'evento, non poteva essere uno e trino, quindi. Però guardi, lo chiediamo dei chiarimenti a lui su questi aspetti. Quindi lei dice, ha già pagato in passato una parcella per questa organizzazione per farsi seguire su un'altra vicenda e adesso le chiedono un secondo obolo? Un secondo obolo, poi naturalmente se va a buon fine c'è la percentuale. Allora io sono andato con questa lettera e con la mia situazione Fondiaria SAI al mio consulente bancario, pensando che potessi fare una rivalsa sul prezzo di carico, visto che sono un cassettista. Invece se non che scopro che con un bel marameo mi trovo che io posso, se no, fare una rivalsa per 500 euro. Allora a questo punto mi domando, dove stiamo? Siamo nel paese del banane. Non ho capito però anche cosa consiste questa rivalsa che lei chiede, Giuseppe, all'intermediario. Allora, perché questo, io non è che posso rivalermi della malagestio, perché di queste persone qua? Perché per loro ci sta la restituzione di 40 milioni di euro alla signora X e Y, però poi mi accorgo che è una finanza da corsa, o corsara, come la vogliamo dire, perché se io ho perso 5.000 euro e poi alla fine adesso aderendo al sindacato, alla fine posso recuperare 600 euro dando 150 euro a loro, più il 10% se va a buon fine. Allora lei dice andare direttamente a chiedergli all'intermediario. Tra l'altro, Giuseppe, grazie, mentre per gli altri clamorosi casi di crack finanziario del passato abbiamo anche una rosa molto vasta di pronunce giurisprudenziali, di tribunali che hanno profilato il diritto al risarcimento dei risparmiatori coinvolti in questi casi, appunto perché avevano effettuato in maniera non consapevole l'investimento, quindi sono state condannati molti intermediari, molte banche. In questo caso ancora la questione non l'abbiamo sollevata, al momento si indaga solamente sulla cattiva gestione di tutta l'operazione. Volevo farli intervenire adesso, ma ovviamente non potevamo farci mancare il problema telefonico, per cui adesso ripristiniamo il nostro collegamento con Marco da Torino, che è uno degli anche estensori materiali, credo, dell'esposto denuncia su tutta la vicenda che viene presentato anche a molti tribunali d'Italia. Marco, buongiorno, eccoci qua. Le ho fatto sentire un po' tutto il modo Abbiamo cercato anche, appunto, come le dicevo, di rendere un po' semplice tutta la faccenda per, ecco, gli ascoltatori. Sì, c'era qualcos'altro da aggiungere? Ho ascoltato un po' di interventi. Mi sembra che certe volte, appunto, utilizzino certe persone delle parole molto, molto difficili per tutti. Comunque, se mi consente, io descriverò brevissimamente i termini della vicenda proprio a iniziare da febbraio-marzo, quando c'era stato per i piccoli azionisti, per i risparmiatori, il primo intervento di Sator Palladio, che proponeva un'offerta sul reale valore dell'azione tra i 2 euro e i 2,30 euro ad azione per ogni risparmiatore. Sì, è stato detto no grazie, non ci interessa, voi non siete degli assicuratori, per cui... Perfetto. No. Perfetto, quindi decidono l'aumento di capitale, esercizi fonsai, appunto con questo accorpamento da 100 azioni ad una, chi ne aveva 100.000 se ne ritrova 1.000, valore non più 93 centesimi ma chiaramente 93 euro, da dire che chi voleva vendere subito nei primi 2-3 giorni, quindi il 2, 3, 4 di luglio, non ha potuto vendere in quanto molti istituti di credito non hanno quotato più il titolo appunto per i primi 3 giorni e nei 10 giorni successivi il titolo scendeva da 93 euro a 52 euro, no, a 55, mi correggo. Il 16 di luglio iniziava appunto l'aumento di capitale e il titolo da 55 euro veniva portato incredibilmente a 2,59 euro con la differenza, cioè 52 euro, nel data come diritto. Ma ecco qui l'altra cosa incredibile della vicenda, cioè chi voleva cercare di accontentarsi, almeno di perdere diciamo la metà, cioè di vendere il diritto a 52 euro, purtroppo non poteva venderlo perché per i primi 3 giorni, perdendo ogni giorno il 40%, il diritto non è stato messo in vendita. È stato poi possibile venderlo il 18 di luglio alle 10.40 al valore di 11 euro. Ma a questo punto, quindi, chi è stato fortunato e lungimirante ha venduto subito, ricavando da 100 euro circa di una decina di giorni prima 11 euro. Chi non ha venduto perché impossibilitato o perché diceva non è possibile, uno scandalo simile, cosa ha visto? Ha visto che nel giro di 3 giorni questo diritto da 11 euro è passato a 1 euro. Quindi, riassumendo il danno in grandi soldoni, chi possedeva il giorno 25 di giugno 100.000 euro e non è stato lungimirante di accontentarsi di 11.000, è rimasto con 1.000 euro. Senta Marco, poi mi racconterà ovviamente l'esposto, dove l'avete presentato e che tipo di obiettivo avete anche con la vostra iniziativa. Mi chiedo, qui la provoco naturalmente, e so che lei è intelligente, la prenderà proprio come tale, come una provocazione. Delle vicende fondiarie assai della famiglia Ligresti si scrive da tanto tempo. Noi abbiamo appunto, siamo partiti con la trasmissione raccontando intanto della grossa perdita in bilancio che si manifestò nel dicembre dello scorso anno. Perché di fronte a tutto quello che si leggeva sui giornali non ha pensato, io parlo, lo chiedo a lei perché adesso è lei qui al mio microfono, al telefono con me, ma questa è una domanda che potrei rivolgere anche magari ad altri suoi colleghi, perché non uscire prima magari in perdita da questo investimento, visto che la situazione si andava rendendo ogni giorno sempre più ingarbugliata? Allora, diciamo che le persone, quando non ho capito, almeno parlo per me e per le persone che ho contattato in Italia, prima di tutto non c'è una conoscenza sempre di tutte quante le cose che capitano e non c'è una cultura specifica magari economica. In secondo luogo, se uno magari si appoggia a un istituto bancario dove spera di ottenere di avere magari una consulenza, esatto, e una consulenza non ha ottenuto nessun tipo di questa consulenza, anzi addirittura le dico, certe persone, la maggior parte degli azionisti, dei piccoli azionisti risparmiatori, la cosa incredibile è che ancora oggi non sanno che hanno perso tutto. Infatti, cioè, Mimmo da Caserta, non riesco a farlo ad intervenire perché voglio far concludere Marco, adesso ci vuole raccontare che sta perdendo qualcosa come 80.000 euro, quindi Mimmo, magari poi prendiamo il suo indirizzo e vediamo di metterla in contatto anche con queste persone con le quali siamo di nuovo ritornati oggi sulla questione. Quindi Marco, ritornando, adesso chiudiamo la parentesi del motivo per cui sono state fatte certe scelte individuali o meno, che obiettivi avete appunto presentando questo esposto? Dove l'avete depositato? Che cosa volete fare? Innanzitutto le dico che noi già a giugno, a luglio, siamo rimasti basiti dal fatto che dell'incredibile silenzio di stampa, politica, banche, governi, da tutto quanto. Quindi noi come piccoli azionisti l'unica cosa che potevamo fare era tentare di percorrere la strada, tra virgolette, gratuita dell'esposto triennale, e quindi noi l'abbiamo presentato nelle sedi noi di Torino, nelle sedi di Torino, le persone di Milano a Milano e in tutta Italia è stato presentato questo esposto, e sicuramente abbiamo dato diciamo voce a queste persone che altra voce non avrebbero, e ci siamo riuniti diciamo su internet per cercare appunto almeno di dare un po' di visibilità, mandando mail ovunque, che poi non sono state ascoltate. Infatti io ringrazio voi che oggi No, devo dire sì che della vicenda si è scritto tantissimo, però ecco, da punti di vista diversi, più guardando ovviamente alle logiche più o meno industriali e finanziarie, alle vicende della famiglia Ligresti, che fanno tanto anche un po' sorridere, perché sono, se non fossero tristi per chi magari oggi non arriva manco alla fine del mese, sono anche un po' folcloristiche effettivamente, per cui ecco, oggettivamente della condizione dei piccoli azionisti che hanno perso tutto, qua stiamo parlando anche di cifre importanti, perché Mimmo non ha più 80.000 euro, non è che stiamo parlando di 1.000 euro, oggettivamente forse questi aspetti non sono stati sufficientemente enfatizzati. Quindi Marco, senta, le posso chiedere se lei conosce il sito Domenico Bacci, questa organizzazione che sta cercando appunto di raccogliere quanti più risparmiatori coinvolti in questa vicenda possibile per portare avanti, non so se magari iniziative di class action o di che tipo di tutela? Allora, conosco il sito, conosco altre associazioni come la Rusbef che stanno tentando di portare avanti questa difesa dei piccoli azionisti, poi appunto alcuni hanno deciso di affidarsi al Citi, altri all'Adusbef, altri ad esempio come noi ricorreremo da soli per il risarcimento civile. Perché, che cosa vuol dire risarcimento civile? Chiediamo risarcimento appunto con una causa civile che procederà parallelamente alla causa penale, certo, che viene instaurata dalle procure. Anche perché dall'aumento di capitale non è che si può tornare indietro, qui l'unica cosa da poter raggiungere ed eventualmente un eventuale risarcimento, indennizzo, forma risarcitoria di qualunque tipo. Marco, si è concluso, abbiamo ancora 30 secondi di tempo prima dei saluti. Ultimo messaggio? Sì, io, ripeto, ringrazio voi che avete dato voce alla disperazione della gente, dei risparmiatori che appunto hanno tentato in tutti i modi di portare a conoscenza questa tristissima vicenda agli occhi di tutti. Ci ritorneremo, Marco, promesso, magari tra qualche settimana, per verificare anche un po' tutte le iniziative, come stanno andando avanti intanto le indagini a Torino e a Milano, qualora si aprisse anche qualche altro focolaio giudiziario in altre città italiane. Ritorneremo naturalmente su questo argomento. Grazie anche a Valeria Novellini, all'avvocato Paolo Fiorio del Movimento dei Consumatori. Noi ritorniamo domani con Salvadanaio. A tutti buona giornata.